Terra in vista. Le emozioni spiegate a mio figlio. Buon anno da Federico Taddia. Buon anno, ciao. Telmo Piovani, eccoci qua. Ciao, Terra in vista, le emozioni spiegate a mio figlio, il terzo appuntamento di questo breve viaggio, ma molto intenso, appunto attraverso le emozioni. Abbiamo conosciuto e scoperto l'amore, abbiamo conosciuto e scoperto il desiderio. Oggi parliamo di paura. Perché è proprio il primo dell'anno, paura? Perché dai, insomma, paura del nuovo, paura dell'ignoto, paura della pagina che giri. E quindi, bianca. Insomma, c'è comunque la scoperta, che poi è quella paura anche bella, no? Legata alla curiosità. Poi dicono che sia l'emozione del nostro tempo, ma non ne parleremo proprio per scacciarla via. Assolutamente. Poi, insomma, la paura è comunque un'emozione con cui i nostri bambini e le nostre bambine hanno a che fare quotidianamente per ovvi motivi, perché quando non conosci qualcosa, in questo caso non conosci il mondo, comunque ci sono mille elementi che ti spaventano. Oggi tenteremo di capire che cos'è la paura e lo facciamo partendo proprio dalle loro voci. La paura è qualcosa che ti spaventa, che non ti fa respirare e che ti spaventa. Quando per esempio c'è qualcosa che è un po' brutto, che non ti piace a te. È un sentimento che blocca il corpo, praticamente. Io da piccola avevo paura del buio, però poi mi hanno spiegato che c'era una luce e non ho avuto più paura. Quando c'è una cosa che ti spaventa e non la riesci ad affrontare, che dentro di te sai di non poter affrontare, che la trovi troppo grande o troppo paurosa. La paura è un sentimento di dove trovi un'immagine che ti sembra paurosa, ma che in realtà o è nella tua mente o è un'immagine finta. E gli ho chiesto una dimostrazione di paura e giustamente... E te l'ha fatta. Sì. Tu sei filosofo della scienza, Telmo, ma questi sono veri filosofi. Hai sentito quante belle cose che hanno detto sulla paura? Beh, hanno colto nel segno. E soprattutto si capisce che... Ma la paura è un'emozione negativa o positiva? Cioè, a cosa serve la paura? Uh-huh. Ce lo siamo mai chiesto. Nel senso che noi sappiamo, ci siamo evoluti sviluppando questa emozione perché ci ha permesso di riconoscere e di reagire alle minacce esterne. Per esempio, i predatori. Perché noi siamo evoluti come prede. Dovevamo stare attenti a non farci mangiare. Quindi la paura ci ha permesso di sopravvivere e quindi abbiamo una paura istintuale per i ragni e per i serpenti, che pare essere molto atavica ed è universale. Abbiamo paura delle altezze, le vertigini, abbiamo paura della folla, la paura del buio, abbiamo sentito adesso, la paura delle malattie, quando siamo un po' ipocondriaci. Poi quando le paure diventano ricorrenti, si dice, diventano ansie. Ansie da relazioni sociali, da insicurezza, dalla separazione dalla mamma che è andata via, eccetera. E sai perché? Anche questo ha una sua ragione evolutiva. Si chiama teoria del meglio troppo prudenti che morti. Beh, sì. Ovvero? Ovviamente, direi. Perché immaginati di essere una preda. Tu devi stare molto attento a percepire tutti gli indizi che stanno intorno a te, no? Per esempio, immagina che tu stai andando nella foresta e senti uno scricchiolio là nel buio, lontano dal sentiero. Se tu sei, questo è un indizio, probabilmente tu pensando razionalmente puoi dire vabbè, è dovuto al vento, non è un pericolo. E se fosse un predatore invece, allora noi per sicurezza abbiamo imparato che è meglio preoccuparsi tutte le volte. Perché se anche una sola volta sbagliamo e anziché il vento è un predatore, siamo morti. Ecco perché l'evoluzione ci fa essere talvolta anche eccessivamente ansiosi. E questo è anche il motivo per cui non è mai bene perdere del tutto la paura. Se tu lo chiedi per esempio a un grande alpinista o a quelli che praticano gli sport estremi, o lo chiedi a un soldato impegnato in una missione di pace ad alto rischio, loro ti dicono che la paura la devi dominare, ma devi tenerne sempre un po', perché il momento più pericoloso è quando smetti di avere paura. Quindi la paura, diciamo moderatamente, senza che ti paralizzi naturalmente, ci ha fatto bene nell'evoluzione e continua a farci bene. Questo è un classico esempio di quella che si chiama intelligenza emotiva, cioè imparare a controllare e gestire le emozioni senza annullarle, perché hanno avuto e hanno una loro funzione molto importante. Quindi se ti dicono sei un fifone, tu puoi dire no, sono solo emotivamente intelligente. Cioè, esatto. È una strategia che sto adottando, quindi insomma giocatevela questa carta. Ma cos'è la paura per uno scrittore o per una scrittrice? Lo sapete, in queste puntate iniziamo con le parole, no? Che scelgono i professionisti del mestiere per raccontare un'emozione. Oggi parliamo di paura e abbiamo invitato Carlo Lucarelli. Ciao Carlo, buon anno. Ciao, benvenuto. Buon anno a tutti. Tra l'altro io mi ricordo che Carlo Lucarelli una volta mi ha confessato che ogni tanto, ma forse insomma raramente, però ti è capitato di prendere paura per le cose che tu stesso stavi scrivendo o avevi scritto, vero? Un'autopaura. Sì, qualche volta sì, quando me ne stavo da solo nel mio vecchio studio, che era tutto di legno scricchiolante, scrivevo di notte, sai, quelle cose lì, sembrava di essere, no, dentro un film dell'orrore, stavo scrivendo proprio di robe tremende, ogni tanto mi veniva un brivido e dicevo, vabbè, meglio che smetta che vada a letto, questo sì. Carlo, per uno scrittore la paura che cos'è? Beh, per uno scrittore di gialli, soprattutto come sono io, è un sacco di cose. Contemporaneamente è un mezzo, è qualcosa che ti serve per attirare l'attenzione del tuo lettore, per fare in modo che avendo paura lui cominci a guardarsi attorno, no? E a seguirti per cercare di scoprire cosa sta succedendo. Contemporaneamente per me è una forma di conoscenza, perché è proprio delle cose di cui io ho paura, no, che mi interesso, che vado a guardare chi sono, cosa stanno facendo, perché lo fanno, e capisco un sacco di cose che molte volte servono a me. E ci sono parole che fanno più paura di altre? O è la situazione, il racconto che crea questo clima di paura? È la situazione, perché io l'ho capito con io due bambini che hanno 6 anni, da quando avevano, insomma, da piccoline gli raccontavo le storie, no, storie di paura, è chiaro. Cercavo di non raccontargli delle storie, no, dovevo farle dormire, quindi, e dovevo tranquillizzarle. Però mi sono accorto che anche se raccontavo delle cose normalissime, ma le raccontavo alla mia maniera, cioè improvvisamente, rallentando la voce, queste cose qui, e le bimbe mi dicevano basta, perché ci fai paura. Dicevo, ma non sto raccontando di un gattino che va a mangiare la pappa e scopre, non so, che invece del latte è un'altra cosa, e non importa. Quindi la paura, sicuramente le parole che fanno paura sono le parole che noi diciamo in un certo modo. Ma Carlo, senti, noi ti abbiamo sentito raccontare, abbiamo letto i gialli di fantasia, ma ti abbiamo sentito raccontare storie vere. E allora, dalla tua esperienza, sono più le paure che abbiamo dentro la nostra fantasia o le paure che si sono realizzate veramente là fuori e che tu racconti così bene? Sì, purtroppo si dice sempre, no, che la realtà supera la fantasia, o in questo caso ha superato la fantasia. La realtà supera sempre la fantasia, cioè noi arriviamo sempre dopo. Questo non è che ci inventiamo qualcosa di talmente incredibile nel campo della paura, di così spaventoso che non esiste. In realtà esiste. Noi abbiamo paura di cose che succedono. Le cose che a me fanno più paura non sono i romanzi gialli che scrivo io, che alla fine in qualche maniera si risolvono, che comunque se non mi piacciono posso decidere di non raccontarle più, chiudere, no? E poi dire vabbè, basta, grazie, questa no. Le cose che fanno più paura sono le cose che sono realmente accadute nella realtà, che molte volte sono misteriose e che non puoi far finta che non siano accadute. Quindi sì, il mondo purtroppo è pieno di cose che fanno paura, però se noi cominciamo a cercare di capirle, di conoscerle, no, e di dissipare completamente tutti i misteri, dopo non ci faranno paura più. Certo. Carlo, ma è facile o difficile far paura scrivendo? Beh, adesso è diventato più facile far paura con le immagini, no? Certo. Perché tu vai al cinema e vedi una cosa che improvvisamente esce fuori dallo schermo con un grande rumore, boom, no? Colori fortissimi, e fai un salto sulla sedia. Però anche con la parola ci riusciamo, perché la parola è evocativa, no? La parola ti racconta una cosa che tu non vedi, perché non c'è disegnata, ma che cominci a vederti dentro la testa con quello che tu hai, con gli strumenti che hai tu. La parola ti dice un colore, poi non è che te lo disegna, ed è quel colore lì. È un colore che tu piano piano cominci a crearti con la tua testa. Se sai giocare, no, con le leve giuste, con le note giuste, la tua testa parte e si fa un film che in effetti può fare anche molta paura. Assolutamente. Scusa, ma sono rimasto a papà, per favore non raccontarmi la favola della buonanotte che voglio dormire. È vero, è così. Che è molto molto bello. Grazie davvero Carlo per essere stato con noi. Buon 2018 di paura, ma nel senso bello del termine. Adesso buono, ok, grazie a voi. Anche ciao, a... buon anno. Ciao. E dopo aver ascoltato Carlo Lucarelli, è il momento di ascoltare la prima domanda posta da uno dei nostri giovanissimi ascoltatori. Cosa succede al nostro corpo quando abbiamo paura? Eh sì, partiamo proprio dal corpo. Anche prima, no? Nel loro racconto ci hanno detto la paura è qualcosa che paralizza, qualcosa che toglie il fiato, qualcosa che ti blocca. Quindi, che insomma, si esprime fisicamente. Cioè, quindi è un'emozione che appunto va a agire nel nostro corpo. Cosa succede? Beh, lo chiediamo a Rosa Schiralli, psicologa e psicoterapeuta, direttore scientifico del Festival Nazionale dell'Educazione. Buon anno, Rosa. Benvenuta. Buon anno a tutti voi. Eccoci. Grazie. Qua. E a tutti gli ascoltatori, ovviamente, soprattutto quelli più piccoli. Allora, cosa succede al nostro corpo quando ha paura? Allora, intanto diciamo che se non avessimo paura, a volte non si potrebbe vivere, perché proprio grazie alla paura che noi riusciamo a salvarci da tanti pericoli, a entrare... a evitare situazioni che sono molto difficili. Pensiamo per esempio a quando attraversiamo semplicemente una strada. Se noi non avessimo la paura di attraversare, quindi delle macchine, rischieremmo di finire sotto una macchina, appunto, proprio perché andremo tutti baldanzosi senza guardare a destra e a sinistra, e questo ci potrebbe esporre a un pericolo molto grosso. Ma anche, non so, avvicinarsi troppo alla gabbia di un leone allo zoo o di un animale feroce, se non avessimo paura ci potrebbe assalire. Ma come funziona questa paura? Che cosa succede nel nostro corpo? Ecco, diciamo che quando scatta la paura, il nostro corpo comincia a produrre delle quantità fortissime, molto elevate, di due sostanze, due ormoni che hanno un nome, sono l'adrenalina, che avrete sentito nominare, certo, e il cortisolo. Queste sostanze vengono prodotte in una certa parte del nostro corpo e sono proprio come delle sentinelle che lanciano un segnale, di un appello SOS, no? E come dicessero, attenzione che stanno arrivando i nemici. Ok, no? Sono un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme. E allora che succede? Tutto il corpo si prepara all'attacco. Cioè, per esempio, il cuore batte più in fretta. Perché batte più in fretta? Perché c'è bisogno di un maggiore afflusso di sangue nei muscoli, in modo che noi siamo proprio più forti, braccio di ferro in quel momento. I polmoni, per esempio, si estendono di più perché possano dare più ossigeno al sangue. Le nostre arterie diventano un pochino, si restringono essendo elastiche, in modo che la pressione del sangue aumenti. E per esempio un'altra cosa che forse non soprattutto i nostri piccoli ascoltatori non sanno, che allo stomaco arriva meno sangue, in modo che così si possa rallentare la digestione. E questo, per infatti, se ci pensiamo, quando uno ha paura non abbiamo mai fame. No, infatti. Ma questo ti si stringe lo stomaco. E si stringe lo stomaco, la digestione rallenta e il sangue va invece nei muscoli e noi siamo pronti sempre a difendere. Insomma, siamo una macchina perfetta per la paura. Sì, sì, diciamo è una macchina perfetta. Oddio, in parte sì, nel senso che noi siamo pronti per difenderci. Poi a volte succede che alcune persone invece nella paura rimangono... non sono pronte a difendersi, rimangono paralizzate, certo. Paralizzate. Ma la domanda che si fanno spesso anche i bambini è: ma tutte queste reazioni, questi fenomeni, li possiamo controllare noi? Cioè, li possiamo, o sono involontari, non ci possiamo fare niente, sono non consci? Possiamo fare poco, perché alcuni di questi meccanismi sono proprio programmati in parte geneticamente nel nostro cervello e si attivano automaticamente di fronte a un pericolo. In questo c'è una spiegazione, che se non fossimo fatti così, la nostra specie non sopravviverebbe e non sarebbe sopravvissuta nei milioni di anni. Cioè, ci dobbiamo comunque difendere, quasi in automatico, ecco, diciamo così, e quindi si può fare poco, anche perché il sistema nervoso che viene coinvolto durante gli stati di paura, le situazioni di paura, è proprio quello neurovegetativo cosiddetto, che è più vicino alle emozioni, e noi non possiamo controllarlo, non possiamo controllare che il cuore batta meno forte o la sudorazione, per esempio. Come facciamo a controllare la sudorazione che durante la paura aumenta, perché c'è lo scopo di raffreddare il corpo sempre in preparazione di uno sforzo imminente per difendere. Esatto. Poi c'è anche il tremare dalla paura, che è un'altra reazione che alcuni corpi hanno, no? Che è sempre legato probabilmente a questo stato di improvvisa agitazione. Prima di parlare in pubblico, per esempio. Eh sì. E in realtà il tremare dipende sempre dall'irrigidimento dei muscoli, che sono pronti per attaccare, appunto. Poi succede che a volte, siccome diciamo che la centralina della paura, chiamiamola così, il punto del cervello, ci sono alcune strutture del cervello che sono state individuate e che sono si occupano proprio della paura, si attivano quando siamo nello stato di paura, e queste strutture di queste strutture quella principale, diciamo, è l'amigdala, si chiama così, si chiama sì, così perché è ha la forma di una mandorla. Okay. Questa amigdala ha anche la funzione, proprio è come un registratore, e che quando abbiamo appunto paura o siamo in una situazione di pericolo, l'amigdala registra tutte le emozioni che noi proviamo. E poi nel momento in cui, anche a distanza di tanti anni, ci troviamo di fronte a una situazione simile, a uno stimolo simile, abbiamo memoria, una sorta di scatola nera che rimane lì. Rimane lì e immediatamente noi proviamo la stessa paura che abbiamo magari provato un tempo e che ci ha tanto segnato. E a volte l'amigdala è talmente piena di queste registrazioni, oppure ne ha registrato delle situazioni molto brutte, molto pericolose, molto minacciose, che si sbaglia pure. E a volte se l'amigdala la fa da padrone, cioè troppe registrazioni negative, può succedere che non viviamo tanto bene. Eh no, siamo sempre in ansia. C'è uno stato d'ansia che ci accompagna, non è quello assolutamente che vogliamo prede augurare della paura a nessuno. Grazie davvero alla dottoressa per averci raccontato questo strano corpo che ci appartiene, tutte le sue reazioni, che sono reazioni, come abbiamo ben capito, di difesa. Un grazie quindi a Rosa Schiralli, buon anno, buon 2018, dottoressa. Grazie, a buon presto. Anno anche a voi. Beh, un fischietto invece, la nostra risposta alla paura, l'avete riconosciuta questa musica, è il momento della poesia, è il momento di Chiara Carminati. Ciao Chiara, buon anno! Ciao! Ciao, ciao, anche a voi! Allora, abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di desiderio, adesso è il momento della paura. Qual è il legame che c'è tra paura e poesia? Ma Diciamo che la poesia può parlare di tutto, per cui è un legame apparentemente come con tutte le altre emozioni, ma mi è sembrato di vedere una relazione tra paura e poesia, e pensando a una cosa di cui io avevo paura quando ero bambina, ma che nello stesso tempo anche mi affascinava molto, e cioè che il fatto che di notte le cose che mi stavano intorno, che erano le cose della mia stanza, quindi le cose che potevo conoscere meglio, ma col buio della notte si trasformavano in qualcos'altro e questo era tremendo, perché appunto ti svegliavi, sai, nel cuore della notte, magari avevi solo bisogno di un bicchiere d'acqua e il lampadario diventa una medusa enorme, gigante, che ti sta minacciando. Però era anche molto affascinante, perché una volta capito che di giorno quello che tornava ad essere il lampadario, era interessante svegliarsi di notte per provare un po' di paura, ma anche vedere che cosa succedeva alle forme delle cose durante la notte. E alla fine questo è un po' lo sguardo che ha il poeta verso le cose, che intravede le similitudini, le analogie, fa delle metafore, no? Spesso il poeta, guardando una situazione, un oggetto, qualche cosa che gli sta davanti agli occhi, che sta di fronte a lui, ma cercando di guardarlo dicendo assomiglia a qualche cos'altro. Ovviamente le paure della notte sono spaventose, uno un po' le vuole ma un po' le vuole evitare, mentre questo tipo di ponte che crea il poeta, questo tipo di analogia, è qualcosa di meraviglioso. Se il poeta è bravo ci sorprende, e anzi desideriamo leggerne ancora. Certo. Torniamo come sempre al suono delle parole. Ci sono parole che ti fanno paura per il loro suono? Ci sono parole più, sì, sicuramente più paurose di altre, quelle che sono piene di rrr, di nessi duri, crr, sono spesso usate, no? Oppure le U, ecco, le U, i suoni delle U, delle vocali scure, anche sono usate per evocare la paura, per cui magari una parola così, che di suo non significa niente di pauroso, ma messo in un contesto che però è piena di U, messo in contesto di altre U, crea un ululato, non a caso, no? E il lupo, torniamo al lupo, che è un po' il simbolo nelle fiabe di tutto ciò che ci fa paura. Quindi ci sono le parole scure, o i suoni più che le parole, i suoni scuri, che poi si organizzano in maniera virtuosa nelle parole, che messe vicino appunto ottengono un concerto pauroso dal punto di vista sonoro. Grazie davvero a Chiara Carminati per essere stata con noi in queste tre puntate di Terra in Vista. Anche oggi le tue poesie ci accompagneranno. Iniziamo entrando in un corridoio buio e scuro, che è una poesia inedita. Ciao Chiara, buon anno, grazie. Ciao, anche a voi, ciao. Buon anno. Corridoio buio e scuro. Corridoio buio e scuro, quanti mostri dentro il muro. Corridoio scuro e cupo, e se salta fuori un lupo? Corridoio cupo e stretto, se mi aspetta sotto il letto? Corridoio luce piena, la risata si scatena. Terra in Vista. Eccoci qua, ancora alle prese con la paura, ancora alle prese con le domande dei nostri giovanissimi ascoltatori, domande come questa. Perché abbiamo paura del buio? Un grande classico. E direi. Sì, insomma, è la paura, credo, proprio con la P maiuscola. Andiamo a capire perché abbiamo paura del buio, lo facciamo con il medico psicanalista Simona Argentieri, a cui diamo il benvenuto e il buon anno, Argentieri. Anche a voi buon anno. Ciao, benvenuta. Allora, accendiamo subito la luce, così non... Argentieri, ma questo buio come mai ci fa così tanta paura? La cosa principale da dire è che è normale avere paura del buio, ce l'abbiamo un pochettino tutti. La differenza sta tra quando appunto è una piccola paura ancestrale e quando invece è il sintomo di qualche altra cosa, perché quella del buio è una paura senza nome, e cambiano moltissimo le cose a seconda dell'età nelle quali si manifesta e anche l'intensità. Per un bambino può bastare una lucetta. Sì. Per quelli che sono almeno anagraficamente adulti, la paura del buio può nascondere tantissime cose. Ma e si risolve appunto questa paura solo accendendo una luce anche quando sei adulti? Ma quello è soltanto il sintomo. La cosa interessante è riuscire a capire cosa ci possa essere dietro, perché è un grande passo in avanti se da una generica paura del buio senza nome riusciamo a definire e dare corpo a questa paura, magari con un incubo. E una delle leggi del funzionamento dell'inconscio è che l'aspetto manifesto non si può decifrare meccanicamente. Per alcuni, per esempio, la paura del buio non è tanto quella della tenebra quanto l'idea che se ti lasci andare al sonno e quindi diventi passivo, ti abbandoni, chissà che succede, se ce la farai a risorgere, a risvegliarti. Per altri invece il buio può rappresentare il momento in cui si possono scatenare in un momento di minor controllo delle passioni disturbanti. In questo siamo veramente ciascuno di noi con una paura diversissima, anche se l'apparenza è sempre la stessa. Ma Simona, ci può essere anche una componente di paura dell'ignoto, di qualcosa che non sai prima di buttarti? Può essere, però quasi sempre la paura è una paura interna, cioè potrebbe essere più che ragionevole, se dobbiamo addentrarci in un antro oscuro, anzi saggio, avere paura. Questo forse non l'abbiamo detto, ma la paura è un meccanismo protettivo, certo, positivo, che serve a organizzare le nostre difese, per l'appunto. Quando diventa eccessiva invece è un ostacolo, e in questo senso la difficoltà di distinguere quando una paura è normale e quando è nevrotica è una questione davvero delicata. Stavo pensando che poi se vedi un'ombra, no, nel buio, sei portato a vedere una strega, a vedere qualcosa di spaventoso. Difficilmente ci vedi, che ne so, un gelato alla panna o comunque un qualcosa di piacevole, vero? Ma in questo siamo veramente tutti molto fantasiosi. Le streghe usano poco ormai, però non è che le paure cambiano semmai le maschere che si mettono. Magari prima era l'uomo nero, la strega, adesso il terrorista o il drogato. Altre volte puoi avere paura delle cose più bizzarre, anche del gelato alla panna, perché no? C'è tutto il bestiario degli animali. La cosa affascinante, anche se inquietante, è che per quanto enorme e lunghissimo sia il catalogo delle paure, non si può decifrare in un modo meccanico, cioè se io ho paura dei serpenti significa questo, se ho paura del buio significa quest'altro. È sempre un gioco da fare a due, può essere molto complicato arrivare a capire cosa c'è dietro, ma per molti di noi è più comodo, tutto sommato. Meno inquietante se ha una paura oscura che viene dalle profondità dell'inconscio, sostituiamo una paura apparentemente logica, che so, la paura dei cani o quella dei coltelli o magari dell'aereo. E di Simona, ma cosa pensi di quelli che, appunto, forse sapendo quello che tu stai dicendo, usano la paura, si fanno imprenditori della paura? Sei malizioso, ma hai perfettamente ragione. Può diventare anche un espediente, da quello più innocente dei bambini che per banale ansia di separazione possono inventarsi paure strane per essere ospitati nel lettone dei genitori, a quelli che in linea molto più generale, e lì entreremo in un discorso troppo complicato, sociologico o politico, per esempio fanno leva sulla paura primordiale per eccitare l'angoscia contro l'estraneo, il nemico, lo straniero. Ho un'ultima domanda, Argentieri. Lei ha paura del buio? Mi piace tantissimo, soprattutto perché il buio per me è la premessa a due cose deliziose: dormire e andare al cinema. Fantastico. Grazie davvero e buon anno. A voi. Buon anno, a presto. E dalla paura del buio passiamo a una delle storie di Telmo Pievani. Ma oggi ti racconto la storia di quello che pensava Darwin della paura e delle emozioni. Lui non era un tipo molto emotivo, a dire la verità, però quando ormai era vecchio, nel 1872 scrisse un libro che poi divenne famosissimo, che si intitolava L'espressione dell'emozione nell'uomo e negli animali, che poi venne lungamente dimenticato, tra l'altro. Ed è un libro bellissimo dove lui capitolo per capitolo ti fa vedere come gli animali provano un sacco di emozioni, dalle scimmie agli animali domestici tipo cani, gatti, ma anche i cavalli. Secondo lui tutti gli esseri senzienti provano e condividono piacere, dolore, disgusto, ma anche paura e amore, naturalmente, perché l'evoluzione per selezione naturale e sessuale ha plasmato queste modalità di comportamento e di relazionarsi. Quindi le emozioni per lui, come la paura, emergono spontaneamente proprio come delle difese e poi variano da specie a specie, e ogni specie, i cani, i gatti, lui li osservava molto, esprimono la paura per esempio in modalità diverse. E poi pensa che lui capì che più le emozioni sono istintive, automatiche, che tu non puoi sopprimerle, più vuol dire che sono profonde e si esprimono attraverso quelli che vengono chiamati dei marcatori del corpo, i marcatori somatici. Quindi è come se il nostro corpo ci mandasse, quando ha paura o ma anche quando è emozionato per altre emozioni, dei segnali: battito cardiaco, il ritmo del respiro, i movimenti viscerali, quando si dice qualcosa che mi succede nella pancia, la sudorazione, la salivazione, il pallore, le lacrime, il balbettio, sono tantissime, sono molto belli, perché è tutto un linguaggio, un vocabolario del corpo, come quando si dice mi si rizzano i capelli. In realtà un po' è vero, anche agli animali si rizza, ma anche a noi si rizzano un po' i capelli. E sai come ci è arrivato Darwin a tutte queste conclusioni? Osservando gli animali di casa, sostanzialmente, ma anche studiando i comportamenti di suo figlio William, di mese in mese, di anno in anno, e comparandoli poi con quelli di oranghi, scimpanzé e babbuini che osservava allo zoo di Londra di Regent's Park. Quindi Darwin era veramente un tipo strano, e pensa che fu uno dei primi a usare le fotografie nella scienza. Lui usò le fotografie di emozioni umane viste nei volti delle persone quando hanno paura, quando reagiscono, quando sono sorprese, quando sono curiose e spaventate. Quindi fu uno dei primi a usare la fotografia nella scienza. Pensa se ci fossero già stati i selfie. Cioè, sì, ne avrebbe inventate di tutti. Darwin avrebbe fatto un selfie con un sacco di animali, perché ne ha studiati veramente, veramente tanti. E a proposito di animali, è il momento di Caterina Spiezio. È la responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo, parconaturaviva.it per tutte le informazioni, ed è la voce di Terra in Vista, perché tutto ciò che cerchiamo di capire per noi uomini, insomma, lei ce lo spiega anche dal punto di vista degli animali. E in queste puntate sulle emozioni, appunto, ci ha parlato di amore, ci ha parlato di desiderio e oggi parleremo di paura. Ciao e buon anno, Caterina. Ciao, buon anno. Ciao, buon anno anche a voi. Allora, la paura e gli animali. Beh, insomma, tra l'altro animali che hanno paura o animali anche che fanno paura, perché qui, insomma, c'è il doppio ruolo. Da dove partiamo? Partiamo dagli animali che hanno paura, perché spesso gli animali hanno questa, diciamo, questa emozione, e a volte addirittura raggiungono un livello di paura tale da manifestare questo comportamento che si chiama freezing, dove si è impossibilitati a muoversi, e nonostante questo il battito cardiaco è molto accelerato, quindi hanno proprio paura. Normalmente c'è un dominante che si avvicina a un subordinato che sa di aver fatto qualcosa che non doveva fare, e quindi inizia ad assumere un atteggiamento di sottomissione, quindi guarda il dominante, fa uno sguardo, un'espressione facciale, un comportamento che dice ok, scusa, non ho fatto nulla, ma ti prego non mi fare niente. Quindi è un atteggiamento molto, molto particolare, e gli animali hanno paura molte volte quando non conoscono le situazioni, verso ad esempio situazioni nuove. E vi racconto magari una storia di quando ero in Madagascar durante il dottorato di ricerca, ormai tanto tempo fa. Ad ogni modo, ho studiato Indri e Sipaka, che sono questi lemuri che sono presenti in Madagascar, sono specie, sono delle proscimmie, e la cosa particolare è che l'uomo per i lemuri non è proprio una specie amica, perché ovviamente sono cacciati, e io dovevo seguire e osservare il loro comportamento, per cui dovevo diventare invece una persona per loro amica, qualcuno che loro potevano conoscere, accettare, diciamo nel loro ambiente naturale. Invece ne avevano paura, perché quando mi sentivano arrivare e muovermi all'interno della foresta, la prima cosa che accadeva era che l'individuo che si accorgeva di questa presenza, cioè me, presenza umana, lanciava il grido d'allarme e tutto il gruppo, indipendentemente dal verificare, accertare il pericolo, partivano e loro saltano da un albero all'altro. Io dovevo scendere, salire da valli e quant'altro, quindi spesso li perdevo. Però pian pianino, seguendoli per diverso tempo, siamo dopo un po' di tempo, insomma, che seguivamo questi animali, pian pianino si sono abituati alla mia presenza, visto che non ero il pericolo a cui loro erano abituati per quanto riguardava l'uomo stesso. Quindi ero una persona che non conoscevo, che non conoscevano all'inizio, e pian pianino invece si sono abituati alla mia presenza. E l'ultimo giorno, che era proprio l'ultimo giorno del mio periodo di dottorato di ricerca, stavo osservando i tipaca e mi hanno fatto un regalo bellissimo, perché il gruppo familiare che stavo seguendo, loro sono gruppi familiari, avevano tre piccoli, e a distanza di pochi metri da me i piccoli hanno iniziato a giocare saltando a terra, perché loro vivono a 30 metri di altezza normalmente, su questi alberi. Pian pianino sono scesi e giocavano rincorrendosi, saltando l'uno addosso all'altro, su e giù dagli alberi, a pochissimi metri da me, con i genitori che ovviamente osservavano in maniera attenta questi giovani che giocavano, però li hanno lasciati lì. Quindi questa è stata una bellissima esperienza, perché vuol dire che io ero diventata parte dell'ambiente, quindi ormai un elemento noto, per cui di cui non avere più paura. Certo. E questo era molto molto bello. Ed è importante però avere paura, perché spesso i giovani che non conoscono e non hanno paura si avvicinano troppo al pericolo. Questo purtroppo succede nella quotidianità, quindi è importante invece fare esperienza, magari non diretta, magari osservando gli altri che ti insegnano ad aver paura, che insegnano agli animali ad aver paura di alcune situazioni, in modo tale da poterle evitare. Così sei diventata un po' lemure anche te in quel contesto. Assolutamente sì, mi è piaciuto tantissimo questa esperienza, sì. Sì, in questo contesto sì. Ricordiamo che comunque molte volte l'animale, quando ha paura, diventa aggressivo, no? Diventa quella la sua difesa, quindi non tanto lo scappare o il nascondersi, quanto l'attaccare. Se non ha alternative, certo. Se non ha alternative, sì. Se non può scappar via, quello che a volte purtroppo accade, sì, è proprio quello che se la possibilità di fuga ce l'ho davanti a me e quell'elemento lì mi sta ostacolando la fuga, ovviamente devo far qualcosa perché non c'è la possibilità di evitare quella situazione, quindi divento aggressivo e attacco. Altre situazioni un po' particolari dove si diventa aggressivi non volendolo, che succede anche negli esseri umani, quando ci sono folle di persone, quando ci sono situazioni di pericolo di massa, quello che si diffonde è un po' una sorta di panico. Questo succede purtroppo in Africa, quando ci sono gli attacchi da parte di bracconieri su branchi di elefanti che si muovono, hanno questo pericolo che arriva dall'alto, quindi l'elicottero, in più i bracconieri a terra che li inseguono, il branco di elefanti, che gruppi familiari numerosi, molto uniti tra di loro, hanno questi rapporti e legami molto molto stretti, hanno addirittura, si parla di riti funebri, per cui quando un individuo muore sta lì attorno all'individuo per salutarlo. Ecco, quando ci sono situazioni così di paura si corre, si calpestano anche gli altri, purtroppo ci si scontra e l'unica possibilità è, alla fine, quando ci si ferma, quando il pericolo è passato, quando è passata la paura, fare la conta di quelli che sono rimasti. Ma questa è una situazione che purtroppo la si vede, capita e accade anche negli uomini, perché se c'è il panico non posso stare a guardare cosa accade a te, ma devo cercare di salvare me, e quindi dopo corro e travolgo tutto quello che ho davanti a me. Ringraziamo Caterina Spezio per averci accompagnato in questo viaggio nelle emozioni. Grazie Caterina e buon anno. Buon anno, ciao. Grazie, buon anno. E noi una poesia che ha come protagonista un animale, si intitola L'avventura del paguro. La voce è sempre quella di Chiara Carminati, poesia tratta dalla raccolta Il mare in una rima. L'avventura del paguro. Sulla spiaggia c'è un paguro che ha paura dell'oscuro. Non gli piace il mare blu e detesta scender giù. Vive sempre rannicchiato, risucchiato nel suo guscio, finché un giorno bussa all'uscio una splendida pagura. Il paguro si innamora e comincia l'avventura. Lui la prende per le chele, lei lo porta in fondo al mare. Quando arriva sul fondale, il paguro innamorato pensa: veramente niente male. Ci rimane e non risale. Fortunato quel paguro, arrivata la pagura, gli è sparita la paura. Terra in vista. Eccoci qua ancora a Terra in vista. È il momento della terza domanda dei nostri giovanissimi ascoltatori, domanda a cui dare una risposta. Perché ci piacciono tanto le storie di paura? Sì, abbiamo parlato e stiamo parlando della paura, questo sentimento. A me non piacciono invece. Ah no? Ho qualche problema. Ma perché hai paura o perché non ti affascina? No, le storie horror non mi piacciono. No. Violenza gratuita. Avrò dei problemi, evidentemente. No, no, non credo. Però, insomma, appunto, la paura, questa cosa che ti blocca, questa cosa che ci agita, questa cosa che poi quando ci sono le storie di paura invece a tanti, a parte a Telmo Piovani, piacciono molto. Capiamo il perché e lo facciamo con Roberto Recchioni, che è curatore editoriale e sceneggiatore di Dylan Dog. Dylan Dog, grande amico di Radio 24, ieri sera tra l'altro c'erano in onda le puntate della serie Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, tutta la serie che si può trovare via podcast e sul sito radio24.it. Ciao Roberto, buon anno. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti, buon anno. Allora, piacciono le storie di paura? Sì, da sempre, da anche da tempi non sospetti, piacciono già nelle fiabe, che non sono altro che horror. Gli horror non sono altro che una versione per adulti o comunque un po' più dura delle fiabe tradizionali. In effetti, insomma, Biancaneve è una storia horror. Sì, Cappuccetto Rosso anche. Cioè, sì. Una nonna mangiata da un lupo, una bambina mangiata da un lupo, un lupo poi squagliato da un cacciatore. Le fiabe sono proprio horror a tutti gli effetti. E come mai piacciono, Roberto, secondo te? Ma in generale, in particolare i bambini ne sono attirati perché è una maniera di ricondurre le paure, quelle vere, a una dimensione controllabile, quindi in qualche maniera di esorcizzarle, nel senso noi ci spaventiamo in tutta sicurezza, quindi affrontiamo le nostre paure in un ambito sicuro e in questa maniera riusciamo ad affrontarle. È così, Telmo, sto pensando al l'uomo preistorico, sto pensando alla caverna, sì. Sto pensando al fuoco, che è il primo luogo dove poi si raccontano storie. Viene quasi naturale forse raccontare storie di paura, vista la situazione. È la radice del gioco, no? Cioè io simulo delle situazioni che mi piacciono, che mi fanno paura, perché so che sono in sicurezza, cioè che non sono vere. E poi pensa che nelle grotte preistoriche il fuoco generava ombre, quindi trasformava le immagini che loro dipingevano alle caverne, trasformandole in chissà cosa, animali di fantasia. Però Roberto, quindi bisogna essere bravi nel trovare sempre modi nuovi per fare paura? Perché c'è quel rischio di essere ripetitivi o no? Ma sai, quello fa parte del mestiere del narratore. Le storie sono grosso modo 7 che poi vengono declinate a seconda della voce di chi le racconta. La paura è un meccanismo forte, poi ha tanti strati, nel senso ci si può attaccare alle paure della società, alle paure del singolo. Ci sono paure che sono paure universali, che sono paure della società, dalla paura del diverso, dalla paura dell'invasione, dalla paura di perdere il nostro status economico e sociale, che poi vengono metaforizzate. Pensate agli zombie, che meravigliosa metafora, che sono diventate di volta in volta dal consumismo degli immigrati, del diverso. Il vampiro, che è stato creato come metafora del vampirismo capitalistico in origine da Bram Stoker. Quindi l'orrore e le storie di paura sono un meraviglioso strumento metaforico di quello che sono le nostre paure al macrosistema e nel microsistema, perché poi attaccano anche sugli elementi semplici. Quindi Stephen King dice: quando non riesco a prenderti alla testa, ti prendo allo stomaco, e quindi i ragni, le cose che si muovono nel buio, quelle paure ataviche che sono proprio parte dell'uomo della caverna di cui parlavate prima. Mm-hmm. Roberto, ma per scrivere una bella storia di paura, cioè bisogna avere paura, bisogna essere arrabbiati, bisogna essere al buio, cioè anche il contesto deve aiutarti o no? È comunque un foglio bianco da riempire? Non lo so, dipende molto dal tipo di narratore, nel senso Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, scriveva storie di paura perché aveva paura. Lui aveva paura dei tizi, che erano questa sua maniera di intendere i teppisti che entravano dentro la sua casa o lo facevano male in strada, e aveva paura di tutto quello che lo circondava. Io sono un narratore diverso, a me fa paura il mostro della società, quindi io quando vedo alcune cose della società le metaforizzo automaticamente nell'orrore. E quindi insomma la storia diventa un po' un modo per raccontare anche se stessi. E deve sempre avere un lieto fine una buona storia di paura? Secondo me le buone storie di paura non hanno un lieto fine. Quelle con lieto fine finiscono per sviluppare quel meccanismo utile, in particolare bambini, di esorcizzazione. Le buone storie horror vere finiscono male. Un'ultima domanda, Roberto, dai un consiglio ai nostri ascoltatori, no? Se appunto a scuola gli chiedessero inventate una storia di paura, da dove si parte? Una storia che riabiliti il lupo una volta tanto. Beh, quella non sarebbe di paura. Non ti piacciono proprio le storie horror? No, ma perché anche il lupo ha paura, no? Che avrà paura anche lui di qualcosa, di noi umani, credo. Sì, beh, per esempio il punto di vista di Dylan Dog tipico è che il vero mostro siamo noi e quasi mai il mostro rappresentato è quello davvero orrorifico, ha comunque delle ragioni alla base per essere tale. Per partire da una buona storia io partirei dal proprio esperienziale, dal proprio ricordo, partirei proprio dalle cose che ci angosciano nella vita normale. Un bambino ha paura di tantissime cose, se dovesse immaginare una storia di paura partirei da quello che conosce bene, ma questa è una regola che vale sempre nella letteratura, scriviti quello che conosci. E quindi niente, bisogna partire da lì, da quel corridoio buio, da quella stanza buia, dalle immagini che pensi di vedere, cioè sempre quello l'inizio più istintivo forse. Sì, probabilmente sì, comunque il raccontare quello che abbiamo attorno immagino che sia proprio la base della narrazione. Potrebbe essere la paura di rimanere senza campo oggi probabilmente. Beh, per esempio le paure, il disequilibrio economico, i problemi economici, le crisi economiche hanno sempre generato dei periodi molto ricchi per l'horror. I migliori film e romanzi horror escono nei momenti più gravi della società. Penso l'esplosione degli anni 80 dell'horror sia al cinema che di Stephen King era in concomitanza con la crisi energetica degli Stati Uniti di quegli anni, per dirne una. O negli anni 50 la paura del comunismo e la guerra fredda ha generato l'invasione degli ultracorpi. Bisogna saper annusare le paure del momento. Sì, metaforizzarle e riuscire a trasformare quelle paure effettive in una forma metaforica. Speri che sia un 2018 quindi pieno di paure. Beh, per gli anni, per l'horror il 2018 credo che sarà un'ottima annata, visto che a me terrorizza. Ah, ok, attenzione, questo non so se è un buon augurio. Grazie davvero a Roberto Orecchioni per essere stato qua con noi. Ciao Roberto, buon anno. Grazie, buon anno. Grazie mille. Ciao, ciao. E dopo aver scoperto come nascono le storie di paura, è il momento di un'altra storia. E ce la racconterà il nostro Telmo Piovani. Dove ci porti? Beh, vi porto dove Roberto ci diceva adesso, la paura dell'invasione, lui ha citato. Beh, sai, questa, quella paura verso lo straniero, si è scoperto che è una delle paure più radicate nella nostra storia evolutiva. Sai perché? Perché noi veniamo da un'evoluzione, si dice, in piccoli gruppi, cioè siamo abituati ad avere attorno a noi un gruppo che ci protegge, no? Come succede anche negli scimpanzé. Quindi abbiamo imparato a distinguere molto bene, intuitivamente, nella nostra mente, quando vediamo qualcuno, quando incontriamo un nostro simile, a capire se appartiene al nostro gruppo, cioè al nostro noi, oppure se è un altro da noi, uno straniero. Questo perché nel primo caso siamo portati a collaborare, a essere solidali, amici con lui, nell'altro caso invece tendiamo a vederlo come una potenziale minaccia. E questa è una scoperta importante perché significa che la nostra natura è ambivalente, siamo solidali con chi ci sembra uno di noi e tendenzialmente aggressivi o sospettosi con chi pensiamo sia uno straniero. Ovviamente questa paura intuitiva poi può trascendere, può diventare razzismo, discriminazione, oppure ci fa comportare da tifosi o da settari, cioè da gente troppo innamorata del piccolo noi che li protegge. Però per fortuna la ricerca sul cervello ci fa capire che la nostra mente poi è capace di controllare questo istinto in qualche modo e ci porta a pensare, se ci ragioniamo bene, al fatto che noi oggi, soprattutto nel 2018, dobbiamo imparare che il nostro noi è un grande noi e deve abbracciare tutta l'umanità, perché facciamo tutti parte di un grande noi. Però ricordiamoci che c'è questa paura atavica per il diverso che è lì nascosta, no? E che vedi che una tendenza che viene fuori, perché a volte ci sono dei politici o dei propagandisti che la fanno venire fuori apposta. Pensa a quello che è successo nell'ex Jugoslavia, dove a forza di fomentare l'odio per il diverso attraverso la propaganda e il lavaggio della mente, persone che per secoli avevano vissuto praticamente nella stessa vallata hanno cominciato a odiarsi e a uccidersi, ed è tornata la pulizia etnica. Quindi la scienza ci dice che c'è l'odio e la paura del diverso, rimane sempre un po' lì sotto, che cova sotto la cenere, ed è bene non risvegliarla. Eh no, perché appunto a volte creare paura è proprio uno strumento che qualcuno vuole in mano, no? Per prendere decisioni, per fare azioni che altrimenti non avrebbero giustificazione. Finisce qua questo viaggio nelle emozioni. Un grazie a Paolo Corleoni, alla parte tecnica, Guido Scotti e Valentina Ternullo, che ci hanno dato una mano nella preparazione delle puntate. È stato un viaggio breve ma intenso. Molto, molto intenso, molto denso, molto emozionante. Amore, desiderio, paura, tre emozioni. Ce ne sono tante altre, però già a partire da qui è stato un ottimo inizio. Ci salutiamo con una poesia. In acqua, da Poesie per aria di topi pittori, sempre grazie a Chiara Carminati. Buon anno Telmo. Buon 2018. Buon anno a voi. In acqua. Onda alta, onda mossa, fifa verde, fifa rossa, fifa nera, fifa scura, onda, tufo, che paura. Fifa grigia, fifa gialla, tocco il fondo, torno a galla, fifa azzurra, fifa blu e la fifa non c'è più.